Mezzanotte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Ebbene, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, fa un primo passo l'Italicum, cioè questa proposta di riforma della legge elettorale, come sapete, partorita dall'accordo tra Renzi e Berlusconi. Fa il primo passo, nel senso che è stata presentata in Commissione Affari Costituzionali della Camera e pare, insomma, che ci sia un accordo anche da parte del nuovo centrodestra che abbia cominciato quindi a camminare questa riforma, e non ci sarà il salvalega, e capiremo poi che cosa significa questo. Ci sono vari dubbi ancora che riguardano i piccoli partiti, che sono piuttosto sul piede di guerra, quindi seguite Fettonotte in particolare questa sera, anche proprio per capire tra poco con due esperti in cosa davvero consiste questa legge, perché diversi di voi in questi giorni hanno chiesto spiegatela, fate capire esattamente di quali elementi è composta. Quindi cercheremo di comprenderlo se sarà possibile questa sera. Poi è vero che è una cosa delicata, articolata, non di facilissima comprensione, ma c'è chi invece dà delle risposte anche alle questioni e ai fenomeni più particolari, più strani, più inspiegabili, come i terremoti. La Terra è in continuo movimento naturale, ci sono delle scosse di assestamento, ma la Terra è anche popolata da 7 miliardi di persone che si muovono, e questo potrebbe essere un'altra causa del terremoto. Questo ha detto il cantante Povia, quello che ha vinto Sanremo nel 2005 e che diceva che Luca era guarito dall'essere gay. Bene, però adesso noi cerchiamo invece semplicemente di raccontare la giornata di oggi. Quindi legge elettorale, l'Italicum è stato firmato anche da Alfano, niente salvalega, stop alle candidature multiple, 50% donne e 50% uomini ci saranno nelle liste, e nel referendum del Movimento 5 Stelle vince il proporzionale. Electrolux, nuove polemiche nel governo, il ministro Zanonato e la governatrice Serracchiani parlano a Radio 24. Sesto San Giovanni, madre di tre gemelli uccisa da un furgone, l'autista era senza patente. Iraq, attacchi aerei contro militanti di Al-Qaeda, 50 morti. Cinema, è morto il regista e sceneggiatore Carlo Mazzacurati. E poi per il calcio torna in primo piano il caso Vucinic, il Milan in campo per la Coppa Italia. Iniziamo quindi anche stasera, tanto per cambiare, dalla politica. Vi ricordo, se volete esprimere le vostre opinioni sia sul sistema elettorale sia anche sul proporzionale che ha vinto nel referendum del Movimento 5 Stelle, referendum online, ci sono i due canali per voi, che sono uno la pagina Facebook di Effetto Notte, Effetto Notte trattino Roberta Giordano, oppure i messaggi al 349-238-6666. Ma diciamo, partiamo quindi dalla politica, dai primi inceppamenti che c'erano stati nell'iter dell'Italicum, come quindi poi invece dalla firma anche del nuovo centrodestra, e evidentemente comincia a procedere Betta Fiorito, nonostante naturalmente gli scontenti e i mugugni per ora. Sì, diciamo che il testo era atteso alle 14 in Commissione Affari Costituzionali della Camera, poi è arrivato pochi minuti fa. Comunque un cammino difficile, ma questo si sa, per ogni legge elettorale è così, quello dell'Italicum, e ci sono già le prime indiscrezioni, no? Le candidature multiple, cioè una persona che si candida in più collegi, e poi avremo ogni lista 3-6 candidati, il premio di maggioranza sarà del 18% per chi arriva al 35%, le coalizioni dovranno comunque superare la soglia del 12%, e poi 5% per i partiti dentro le coalizioni, l'8% per chi corre da solo. Questo ha provocato l'ira della Lega, perché sarebbe sotto il 5% a livello nazionale, e si era pensato, almeno Forza Italia aveva pensato, a una norma salvalega che voleva dire che una stessa coalizione poteva avere un partito con un successo in 2-3 regioni per poter poi entrare in Parlamento, tipo la Lega, appunto, ecco. Però poi Salvini ha detto non vogliamo aiutini, e quindi tutto l'hanno si è fermato. Nel frattempo che cosa è successo? È successa la solita discussione sia con i partiti minori, però poi alla fine anche Alfano ha firmato, e quindi di fatto se Alfano, Berlusconi e PD sono d'accordo, questa legge probabilmente si farà. E l'altra cosa è che la discussione all'interno del Partito Democratico non è che si è placata, tant'è vero che è riapparso come un fantasma, come il fantasma dell'opera, chi? Massimo D'Alema, ricordiamo che lui è il simbolo della rottamazione renziana, quindi se noi pensiamo al Partito Democratico e pensiamo a quanto ci sia più conservatore dentro il Partito Democratico, almeno a livello di struttura, di organigrammi, noi pensiamo a Massimo D'Alema. Lui ha detto però la legge elettorale si può cambiare in Parlamento. Lui su questo ha ragione, perché il Parlamento in Italia è sovrano, però Forza Italia ha subito detto no, abbiamo fatto un patto con Renzi. E questo patto è un pacchetto che, a parte la legge elettorale, contiene anche la riforma del Senato, la riforma del titolo quinto, che vuol dire il rapporto con il federalismo, tra il federalismo, tra le varie regioni federali e le varie Stato, camere. Quindi le competenze tra Stato centrale, e regioni. Perché sennò sembra il titolo quinto, sembra come anche questo un fantasma. E a quel punto qui bisogna vedere un pochino, c'è una parte di Forza Italia che vuole aprire e vediamo cosa succederà. Nel frattempo il Movimento 5 Stelle, lo annunciamo, ha fatto il referendum online. Hanno votato 32.800 persone, quindi stiamo sempre pensando a un range molto basso, ma il Movimento 5 Stelle fa uno screening molto duro, no? Perché hanno paura dei troll, allora sono quelli duri e puri, hanno votato online tra proporzionale e maggioritario e hanno scelto il proporzionale. 20.000 circa il proporzionale. Perché? Perché è ovvio che il maggioritario svantaggia il Movimento 5 Stelle, perché si dà la competizione centrodestra centrosinistra. Ricordiamo che anche Renzi ha detto: io sulle preferenze ho ceduto a Berlusconi, e lui ha ceduto sul doppio turno di coalizione, perché poi il centrodestra è sempre stato contrario al doppio turno, no? Quindi insomma vediamo questo cammino iniziato in Commissione Affari Costituzionali con questa legge elettorale, la prima bozza depositata in commissione alla Camera, deve andare in aula il 27 e sarà un po' un rischio che cosa comporterà. Nel frattempo sappiamo che il PD combatte all'suo interno, però Lorenzo Guerini ha detto che anche se Cuperlo si è dimesso non c'è nessun rischio di scissione. E su questo continuo a ripetere, staremo a vedere, ne vedremo delle belle. Grazie tanto Betta Fiorito da Roma, ciao Betta. Ciao. E c'è stata una polemica nuova poi tra la governatrice del Friuli Serracchiani e il ministro Zanonato. La presidente del Friuli Venezia Giulia ha chiesto le dimissioni del ministro dello sviluppo economico, il bersaniano Zanonato, per la gestione del caso Electrolux e il salvataggio dello stabilimento di Porsche. La Serracchiani non ci sta e così è intervenuta a Focus Economia. Io ho parlato e ho agito esclusivamente da presidente della regione Friuli Venezia Giulia per proteggere un territorio al quale viene detto rischia solo il tuo stabilimento. Allora, se permette, alla luce del fatto che io di telefonate ne ho fatte, di lettere ne ho scritte, di incontri ne ho chiesti, ho ritenuto opportuno di, possiamo dirlo, non rimanere col cerino in mano. Non vedo perché deve farlo la regione Friuli Venezia Giulia, non vedo perché non si debba prendere una responsabilità chiara e netta chi in questo momento sta gestendo il sistema dello sviluppo economico italiano. Zanonato però smorza così le polemiche al microfono di Vincenzo Miglietta. Se uno mi attacca dicendo che sono biondo, rispondo che non sono biondo. Dobbiamo stare sul punto. Il punto è che io mi sto impegnando su Porcia. Mi interessa enormemente trovare un sistema per ridurre il costo del lavoro. Il problema grosso ce l'abbiamo a Porcia e io mi sono concentrato su Porcia. Sto lavorando per Porcia perché, al di là delle polemiche, la cosa che a me sta più a cuore sono i lavoratori, le famiglie, la gente a cui ho sempre, di cui faccio anche parte, insomma, il mondo del lavoro. Spostiamoci sulla politica, diciamo, locale. All'Aquila il sindaco Cialente ci ripensa, revocate le sue dimissioni. Trifoggi è il vice sindaco, che sarebbe l'ex procuratore capo di Pescara, che si occuperà di trasparenza e ispettorato urbanistico. E poi ci sarà proprio, dovremo riuscire a raggiungere il sindaco Cialente più tardi. Parliamo di crisi dei consumi che sono ancora in calo e sono pesanti, tra l'altro, le previsioni di Confcommercio. Indizi di fine crisi, non di ripresa. Per Confcommercio il futuro è ancora incerto. Abbiamo toccato il fondo e quindi smesso di scendere, dice il presidente Carlo Sangalli, ma non si può parlare di ripresa per il 2014, anno per il quale l'Associazione dei Commercianti stima un PIL a più 0,3 e consumi a meno 0,2, stime peggiori di quelle del governo. Quale allora la ricetta per ripartire? È indispensabile accelerare il passo ed attuare tutte quelle riforme anche a costo zero che consentono al nostro paese di ritornare a crescere, e tra queste riforme certamente c'è quella del mercato del lavoro. E dunque mettere al centro dell'azione di governo impresa e lavoro con tre punti fermi, dice Confcommercio: riduzione del costo del lavoro, flessibilità, semplificazione burocratica, in particolare investire di più nell'apprendistato, strumento che crea occupazione. Dal 2006 ad oggi ogni mese, secondo il rapporto presentato ieri da Confcommercio, il bacino di apprendisti ha portato alla conferma di 3.000 contratti a tempo indeterminato. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E a livello europeo c'è il sostegno convinto di Confindustria all'Industrial Compact, annunciato oggi dal vicepresidente della Commissione europea Antonio Tajani, ma un obiettivo europeo unilaterale vincolante di riduzione delle emissioni di CO2 del 40% al 2030 rischia di essere irrealistico e autolesionista ed avere gravi effetti sulla competitività dell'industria italiana, così dice, si legge in una nota di Confindustria. Spostiamoci all'estero. 5 attivisti sono stati uccisi e altri 300 feriti nella capitale ucraina Kiev in una giornata di violenti scontri contro le forze di sicurezza. A scatenare le nuove tensioni è sempre la marcia indietro del presidente ucraino sulla firma dell'accordo di associazione con l'Unione Europea. E poi in Iraq, 50 terroristi sono stati uccisi nell'Iraq orientale in attacchi aerei delle forze governative. Ne dà notizia il Ministero della Difesa, precisando che l'operazione è avvenuta nella provincia di Anbar, dove da settimane in attesa è in atto un'offensiva di miliziani qaedisti. Sono stati uccisi 50 terroristi. Per quanto riguarda la cronaca, questo terribile fatto avvenuto in provincia di Milano, a Sesto San Giovanni, un uomo senza patente fa retromarcia e travolge e uccide la madre e i suoi tre, la madre di tre bambini, di tre gemelli. Era un 36enne egiziano, questo autista, che lavorava per un'impresa edile, doveva soltanto spostare il mezzo indietro di pochi metri, tra l'altro non aveva la patente. E adesso parliamo di un lutto nel cinema. È morto il regista e sceneggiatore Carlo Mazzacurati. Paolo Pancieri, ci fai un ritratto del regista? Sì, Mazzacurati era veneto, era padovano ed è morto oggi pomeriggio a 57 anni all'ospedale di Monselice. Oltre che regista, Mazzacurati è stato anche sceneggiatore e ha ambientato molti dei suoi film nel Nord-Est. Il picco della sua carriera è stato nel 94, quando aveva vinto Leone d'Argento con Il Toro, con Diego Botantuono e Roberto Citran al Festival di Venezia. Tra i suoi film più famosi ricordiamo anche Vesna va veloce con Antonio Albanese, La lingua del santo sempre con Albanese e Fabrizio Ventiboglio e L'amore ritrovato con Stefano Accorsi e Maya Sansa. Il suo ultimo film, La sedia della felicità, uscirà postumo perché è stato presentato in anteprima al Festival di Torino e non è ancora programmato per l'uscita nelle sale. Abbiamo ricordato prima che Mazzacurati è stato anche sceneggiatore, infatti ha collaborato con altri registi come Lucchetti e Salvatores per Marrakesh Express e ha avuto anche piccole parti come attore in tre film di Nanni Moretti, cioè Palombella Rossa, Caro Diario e Il Caimano. E per adesso è tutto. Grazie Paolo Pancieri. Parliamo anche delle Olimpiadi invernali. Lettere con minacce terroristiche alle Olimpiadi di Sochi sono arrivate alle sedi dei Comitati Olimpici d'Italia e Ungheria. La notizia è stata confermata da fonti internazionali e anche dal CONI. Il CONI ha comunicato di aver trasmesso il contenuto della mail alle autorità preposte alla sicurezza. Nello stesso tempo si legge in una nota: il Comitato Olimpico Nazionale Italiano manifesta fiducia e serenità nelle misure di sicurezza che sono state garantite dagli organizzatori al CIO. E allora parliamo di queste misure di sicurezza che si stanno approntando in Russia. Tra le case di Krasnaya Poliana all'improvviso appaiono sistemi di batterie antiaerei. I russi avevano detto che li avrebbero dislocati per garantire la sicurezza delle Olimpiadi invernali che stanno per cominciare. Ci sono navi da guerra che pattugliano al largo di Sochi e un sofisticato sistema di controllo di tutte le comunicazioni via telefono, via internet. Ci si chiede, tutto questo basterà a fermare un kamikaze? Vladimir Putin dice di conoscere bene la minaccia e il modo per fermarla, ma può davvero trasformare questa terra sul Mar Nero, avamposto del Caucaso, in una fortezza imprendibile? Davanti a ogni stazione i controlli su passeggeri e bagagli sono capillari, non si può circolare più in auto private e il confine con l'Abkhazia, poco lontano dal primo villaggio olimpico, è stato chiuso. Ma è possibile controllare ogni autobus o fermare ogni tentativo di corrompere un funzionario perché chiuda un occhio ai controlli? I servizi segreti russi sospettano che a Sochi, la città attorno a cui ruota la macchina olimpica, siano già riuscite a entrare tre vedove nere, mogli di militanti islamici uccisi, usate sempre più spesso per compiere gli attentati, vendicandosi. Forse questo clima di paura che si sta materializzando a Sochi 2014 e che ora coinvolge anche i comitati olimpici stranieri come l'Italia è già una prima vittoria dei terroristi. Antonella Scott, Radio 24, Sole 24 Ore. Parliamo ancora di sport, ma diciamo in una dimensione un po' più tranquilla, Dario Ricci, con la Coppa Italia, no? Sì, decisamente più tranquilla, ecco. Roberta, perché sono in campo Milan e Udinese a San Siro. In palio c'è un posto nelle semifinali di Coppa Italia, già raggiunte ieri dalla Roma, e il Milan è in vantaggio perché al sesto del primo tempo appunto ha segnato ancora una volta Mario Balotelli, che rigenerato dalla cura di Clarence Seedorf ha trovato ancora una volta la rete dopo il gol in campionato sul rigore che ha deciso la sfida col Verona. C'è stato un bel cross da destra di Birsa, Robinho ha ciccato il pallone, però dietro di lui è arrivato Balotelli che ha insaccato l'1-0 per i rossoneri. Grazie Dario Ricci, poi man mano ci aggiorniamo, adesso però aggiorniamo chi sta viaggiando e ritorniamo dopo parlando di politica in particolare. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Tra poco dunque scenderemo un po' nei dettagli e nei particolari della riforma della legge elettorale. Vedo già i vostri messaggi, potete continuare a scrivere sulla pagina Facebook di Effetto Notte trattino Roberta Giordano, oppure attraverso i messaggi al 349-238-6666. Prima però vi ricordo quali sono stati i fatti principali della giornata. Partendo naturalmente dalla legge elettorale o Italicum, che è stato firmato anche dal nuovo centrodestra, niente salva Lega, stop alle candidature multiple, ci saranno liste con 50% donne e 50% uomini, e nel referendum dei 5 Stelle vince il proporzionale. Electrolux, nuove polemiche del governo, il ministro Zanonato e la governatrice Serracchiani parlano a Radio 24. Un fatto di cronaca a Sesto San Giovanni, una madre di 3 gemelli uccisa da un furgone, l'autista era senza patente. Lutto nel cinema, è morto il regista e sceneggiatore Carlo Mazzacurati. E per il calcio torna in primo piano il caso Vucinic, poi ne parleremo. In Milan in campo per la Coppa Italia, per il momento conduce 1-0 sull'Udinese. Quindi dicevamo, la legge elettorale ha fatto questo primo passo, è stata oggi presentata in Commissione Affari Costituzionali della Camera e sono stati definiti un po' i primi aspetti, quindi premio di maggioranza al 18%, cioè per chi arriva almeno al 35% dei voti avrà un 18% in più, arriverà quindi al 53% dei seggi. Poi abbiamo detto quindi 50% 50% uomini e donne nelle liste, finalmente sembra che si voglia un po' introdurre un minimo di parità anche nella rappresentanza politica, e poi abbiamo detto lo sbarramento del 5% per le coalizioni e dell'8% per chi corre da solo. Però vediamo adesso con due esperti di capire meglio, di chiarire di più, visto che tante volte voi ascoltatrici e ascoltatori chiedete di avere maggiori spiegazioni e più chiarezza su la composizione e l'articolazione di questa proposta di riforma elettorale. Allora intanto saluto il professor Roberto Dalimonte, bentornato professore. Buonasera. Docente di sistema politico italiano alla LUIS, autore di moltissimi saggi anche sul sistema elettorale. C'è il professore Aldo Giannulli, buonasera. Buonasera. Docente di storia del mondo contemporaneo all'Università degli Studi di Milano. Specifico che il professor Dalimonte è diciamo ufficialmente consulente per la riforma elettorale per Renzi, e Giannulli, poi ne parleremo, invece per il Movimento 5 Stelle. Dalimonte, allora, abbiamo sentito, lei la conoscerà benissimo, alcuni elementi, poi il Parlamento vedrà se cambiare o meno con gli emendamenti, ma io le chiedo proprio uno sforzo di sintesi e di chiarezza, proprio per queste domande che fanno sempre gli ascoltatori. Lei in poche parole, con molta chiarezza, spiegherebbe quali sono i punti principali di questa riforma elettorale, proprio in pochi punti? Il punto principale è che chi vince, che può essere un partito o una coalizione, con un voto più degli altri ottiene la maggioranza assoluta dei seggi e governa. Questo è il punto centrale di questo sistema elettorale. Lo ripeto, chi vince, coalizione o partito, nel senso che chi ottiene la maggioranza relativa dei voti, cioè almeno il 35%, no? Poi arriviamo a quel punto, quindi chi ottiene un voto più degli altri, ecco, a condizione che sia sopra il 35, ottiene la maggioranza assoluta dei seggi, quindi la sera delle elezioni si saprà chi governa il paese. Questo vuol dire che gli elettori decideranno chi governa il paese. Ora lei ha parlato del 35, ecco, l'altro elemento importante, ma che fa sistema, diciamo così, è che se nessuno arriva al 35% dei voti, i due partiti o le due coalizioni più votate si sfideranno in un ballottaggio, per cui chi otterrà il 50% più uno dei voti al ballottaggio avrà il 53% dei seggi, quindi di nuovo ci sarà un vincitore la sera delle elezioni. Quindi questo è l'elemento centrale di questo sistema elettorale. Professore, però le chiedo, a proposito appunto del premio di maggioranza della coalizione, eccetera, si è parlato fino a poco fa del Salvalega che invece sarebbe saltato, pare. Però con questo premio di maggioranza, no, immaginiamo quindi una coalizione, per esempio, del centrodestra con Forza Italia, Nuovo Centrodestra, non so, Fratelli d'Italia. Ecco, rischiano i piccoli partiti, questa è la loro polemica, il loro dubbio, di fare un po' da portatori d'acqua, nel senso che tutti insieme con Forza Italia raggiungono questo 35%, diciamo almeno il 35%, e poi però portatori d'acqua nel senso che permettono poi a Forza Italia di prendersi il premio di maggioranza, mentre loro, se non arrivano almeno al 5%, non hanno neanche un seggio in Parlamento. Come si risolve un po' questa contraddizione, questo paradosso? Non so. Il punto è che questo sistema elettorale tende ad incentivare la formazione di grandi partiti, per cui se un piccolo partito non riesce ad arrivare, se un partito non riesce ad arrivare al 5% dei seggi e quindi ad avere una sua rappresentanza parlamentare, 5% è la soglia tedesca, questo piccolo partito dovrebbe considerare l'idea di aggregarsi ad un partito maggiore, se non vuole, come ha detto lei, rischiare di portare i voti comunque ad un partito maggiore senza prendere seggi. Quindi il problema italiano oggi è che abbiamo una frammentazione esistente e potenziale eccessiva. Se noi non mettiamo dei limiti a questa frammentazione, che vuol dire piccoli partiti, tante liste, il paese diventa ingovernabile. Tutte le grandi democrazie sono governate con sistemi che prevedono grandi partiti o partiti medi. Non si può più governare l'Italia con coalizioni da 6-7 partiti. Quindi questa è un po' la logica del sistema. Se tu sei un partito che ha un 5-6-7% dei voti, hai diritto alla rappresentanza e alla tua visibilità, altrimenti l'incentivo è quello di fare accordi per cui si formano partiti più grandi. Ora voglio chiedere invece al professor Aldo Giannulli. Professore, lei tra l'altro è stato consulente delle procure di Bari, di Milano, anche per la strage di Piazza Fontana, per quella di Brescia, per la strage di Piazza della Loggia, insomma molte cose. Dal 1994 al 2001 ha collaborato con la commissione stragi. Come mai si ritrova a essere consulente per il Movimento 5 Stelle per la riforma elettorale, per questo referendum che c'è stato dove ha vinto il proporzionale, no? Dicevamo prima, votanti 20.450 su 32.847 votanti, in 20.450 hanno votato per il proporzionale. Mi spiega prima di tutto questa cosa, professore? Dunque, io da circa 25 anni mi occupo di sistemi elettorali e quando per esempio nel 93 ci fu il referendum che introdusse il maggioritario in Italia, io scrissi un opuscolo per Avvenimenti, vendette 240.000 copie, quindi diciamo è un vecchio pallino. Per questa ragione, siccome ho riproposto quell'opuscolo che si trova sul sito di Beppe Grillo, informato online, è nata questa idea di questa consultazione. Le leggo alcuni messaggi a proposito di questa consultazione. Sì. Questo ascoltatore o ascoltatrice scrive: Grillo perderà un mare di voti, si terrà i suoi 20.000 informatici, sono i soliti furbi di Sell, dice. Il proporzionale in barba ai pronunciamenti di due referendum. Poi dice un altro ascoltatore: beh, il numero dei votanti dei 5 Stelle è esiguo rispetto ai votanti delle primarie PD, che sapevano benissimo che ospitavano, che optavano per il maggioritario. Questo è Angela. E un altro scrive: no al proporzionale, bipolarismo, preferenza unica e coerente, no disgiunta. Insomma, al di là dei messaggi. Secondo lei, qual è il... Io sono piuttosto meravigliato anche da quello che ho sentito dire prima dal professor Dalimonte, sì. Perché sembra che veniamo da un paese in cui c'è stato il proporzionale. Ma guardate che da 20 anni in questo paese c'è il maggioritario, ci sono le clausole di sbarramento. E questa operazione ha fallito. Nessuna legislatura, non abbiamo avuto una sola, in un solo caso, un governo di legislatura, perché abbiamo fatto delle coalizioni che si sono regolarmente spaccate e in qualche caso si è scisso il partito di maggioranza, come nel caso del PDL da cui uscì Fini nel 2010. Quindi finora la regola è stata che chi si divide perde, ma chi vince non governa. Cioè, guardate che il sistema maggioritario per 20 anni non ha affatto garantito la governabilità di questo paese. Quindi lei si parla di frammentazione come se non avessimo fatto questo tentativo. Quindi lei approva che abbia vinto nel referendum del Movimento 5 Stelle il proporzionale. Guardi, io sono un vecchio proporzionalista, però in quella sede io sono in qualche modo neutrale, nel senso che sono il tecnico che deve spiegare i vantaggi e gli svantaggi di ciascuno dei metodi. Ci dice i vantaggi e i svantaggi di questo proporzionale che preferiscono gli iscritti al Movimento 5 Stelle, in sintesi, professore? Banalmente si tratta di questo, il sistema proporzionale è più rispettoso del principio di rappresentanza. In qualche modo rende meno autonoma la classe politica dall'elettorato, più controllata, e permette sfide a partiti grandi che però non assolvono alla loro funzione, mentre invece il maggioritario blinda l'esistente. Questa è la ragione per cui io credo che un referendum oggi darebbe risultati molto diversi da quelli del 2003. E mi chiedo se non sia il caso di consultare l'elettorato anziché dare per scontato che gli italiani vogliano il maggioritario. Era una domanda che mi ponevo anch'io in questi giorni, professor Dalimonte. Dicevo, va bene, in linea di diciamo, è giusto per competenza che siano i rappresentanti politici a discutere tra di loro quale deve essere il miglior modo per farsi eleggere, per eleggere i loro colleghi, però forse, visto che sono diciamo, la popolazione poi che avrebbe diritto di scegliere i propri rappresentanti, non sarebbe male che non tanto decidere nei dettagli quale possa essere la riforma della legge elettorale, ma provare di nuovo a votare su un proporzionale maggioritario o qualcosa, insomma, sul quale si possa dire sì, no, preferisco questo o quest'altro. Magari un'idea peregrina, professor Dalimonte, però magari in linea di principio. Io faccio fatica a spiegare i sistemi elettorali ai miei studenti in una classe di 30-40 persone. Quindi le immagini, io sono molto scettico che milioni di persone riescano effettivamente a capire le differenze tra diversi sistemi elettorali. E aggiungo anche che nel 93 io non mi sono mai fatto illusioni. Gli italiani che sono andati a votare per quell'astruso referendum, tagli e cuci, non sono andati a votare a favore del maggioritario, perché soprattutto a quell'epoca, ora diciamo che il termine è diventato di uso più comune, ma in quell'epoca, venivamo da anni di proporzionale, era un termine ancora più astruso. Gli italiani che hanno votato in quel referendum hanno votato per il cambiamento, perché gli era stata data attraverso questo referendum una chance di alzare la voce, di un voto di protesta. Ora, di nuovo oggi, un referendum di questo genere, parliamo di milioni di persone, non parliamo di qualche migliaia di persone, non è materia da referendum, quindi E poi aggiungo, naturalmente sono totalmente in disaccordo con chi ha parlato prima di me, perché professor Giannulli, se c'è una cosa che cui sappiamo dai sondaggi che piace agli italiani è scegliere chi governa. Quindi le preferenze che però non ci sono in questo sistema. No, non parlo di candidati, scegliere chi governa, cioè andare a votare sapendo che quel voto, a differenza di un voto proporzionale, perché tu voti un partito, un piccolo partito, poi questo piccolo partito deciderà dopo le elezioni con chi allearsi, con un maggioritario l'elettore vota una coalizione, vota delle alleanze che si presentano prima di chiedere il voto agli italiani e non si fanno dopo aver chiesto il voto agli italiani, e con un sistema maggioritario, soprattutto questo che è stato presentato in Parlamento oggi, come ho detto poco fa, chi va a votare sa che sceglierà il governo del paese. Le chiedo solo questo, professore, non le sembra che il premio di maggioranza, che era stato considerato incostituzionale dalla Corte Costituzionale, non sia ancora anche adesso un po' eccessivo? Cioè chi arriva al 35% poi col premio di maggioranza arriva a prendere il 53% dei seggi, non le sembra ancora eccessivo? Senta, la Corte non ha fissato dei limiti, ha parlato di ragionevolezza. Che cos'è ragionevole? Un premio del 10, del 15, del 18? La Corte poi ha parlato di soglia per far scattare il premio. Aggiungo il Blair, facciamo l'esempio di altre grandi democrazie. Blair, il terzo mandato come premier. Tony Blair in Gran Bretagna, sì. Sì, Tony Blair col 35% dei voti, ha ottenuto il 55% dei seggi. Alle ultime elezioni in Francia, Hollande, il Partito Socialista, ha ottenuto il 29% dei voti al primo turno, cioè come Bersani, e ha preso il 53% dei seggi con il secondo turno. Queste sono le democrazie governanti. E qui sono premi che sono del 20% o più. Quindi la Corte non ha messo limiti all'entità del premio. Ha parlato di ragionevolezza e di soglia. Chiaro, chiaro, professore. Chiedo al professor Giannulli, poi ci dobbiamo lasciare. A proposito del proporzionale, alcuni ascoltatori dicono certo, perché se non ci fosse il proporzionale il Movimento 5 Stelle rischierebbe di sparire. Dice Matteo, basta con i piccoli partiti, vinca la destra o la sinistra e chi vince governi. Ancora sulla pagina Facebook, una legge elettorale che lascia fuori i partitini piccoli è ben accetta, scrive Ele. Come concludiamo, professor Giannulli? Concludiamo, se mi consente. Sì. Primo, che questa è una legge incostituzionale, perché la Corte Costituzionale ha ritenuto che fosse eccessivo, irragionevole, un premio del 24%, perché tale era il premio, in questo caso la coalizione di centrosinistra ha avuto il 29% e si è aggiudicata il 54% dei seggi. Con gli stessi voti, se si fosse votato con il sistema attualmente proposto, il divario sarebbe stato del 27%, per cui non si capisce per quale motivo il 24% era ritenuto un premio non ragionevole, lo sarebbe un premio del 27%. Non solo, ma con la clausola di sbarramento dell'8% il premio salirebbe ancora. E quindi, primo, questa cosa è assolutamente incostituzionale. In secondo luogo, prendo atto che il professor Dalimonte ritiene l'elettorato non in grado di decidere sui sistemi elettorali, mentre questo deve essere materia riservata al ceto politico, il che fa capire lo spirito della norma, cioè in qualche modo mantenere dei meccanismi che blindino gli attuali partiti. Professor Quanto Giannulli, a quelli che sì. pensano che il Movimento 5 Stelle resti fuori, vorrei ricordare che ha avuto il 25%, sì, siamo infatti e attenzione al che al ballottaggio non vi troviate i 5 Stelle. Staremo a vedere, tanto di legge elettorale ne parleremo ancora molto, è inevitabile. Intanto ringrazio il professor Roberto Dalimonte, il professor Aldo Giannulli, sono già molto fuori tempo, ci dobbiamo sentire dopo. Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Guardo ancora un attimo i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Tullio, per esempio, scrive a proposito della riforma elettorale: più che legge elettorale spero che cambino gli elettori e finalmente si decidano a votare altro, basta PD, Forza Italia, Nuovo Centro, PDL, che nei fatti, dice, sono un unico partito, piuttosto votino Sello Fratelli d'Italia. Hanno bisogno, dice, i grandi partiti storici non sono certo una garanzia di buon governo. Ma adesso corro perché vi devo ricordare i fatti principali della giornata. Con l'Italicum che è stato presentato, c'è stato il testo nella Commissione Affari Costituzionali della Camera, via il Salvalega, firma anche il nuovo centrodestra, premio al 18% per chi arriva al 35%, in ogni lista ci saranno 3-6 candidati. Sulla vicenda dell'Electrolux, lite tra la governatrice del Friuli Venezia Giulia Serracchiani e il ministro dell'Industria Zanonato. Cronaca Sesto San Giovanni, una madre di tre gemelli uccisa da un furgone, l'autista era senza patente. Lutto nel cinema, è morto il regista e sceneggiatore Carlo Mazzacurati. E per il calcio torna in primo piano il caso Vucinic e il Milan è in campo per la Coppa Italia contro l'Udinese. E adesso l'appuntamento, come sempre, come tutte le sere, con l'Europa. In questo caso parliamo del piano che riguarda clima ed energia. Europa 24 notte. Verso le europee. Saluto allora Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles. Ciao Beda. Buonasera. Beda, allora oggi la Commissione europea ha presentato questo piano da realizzare entro il 2030, perché si guarda sempre molto in là e giustamente, visto che i tempi ci vogliono, su clima ed energia. E mi pare tra l'altro un piano piuttosto ambizioso, no Beda? È un piano piuttosto ambizioso, sì, che si basa su almeno due aspetti. Primo aspetto, la Commissione propone ai governi di avere come obiettivo una riduzione delle emissioni nocive del 40% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030, primo obiettivo. Secondo obiettivo, c'è la volontà di avere sempre entro il 2030 una quota di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili del 27%. Sono questi i due principali obiettivi presentati oggi dalla Commissione. Ma a te, Beda Romano, sembra realistico, anche perché mi pare che ci siano già delle contrarietà, delle lamentele rispetto al fatto, no, per quanto riguarda le industrie e le imprese, di tagliare le emissioni di una certa percentuale piuttosto alta entro quella data e di quindi investire evidentemente sulle energie rinnovabili. Sì, assolutamente. Ci sono critiche da parte delle associazioni imprenditoriali, o almeno da alcune associazioni imprenditoriali, che temono in un momento di crisi economica di assistere a un ulteriore aumento dei costi dell'energia a causa di questa lunga fase di transizione che deve comportare una forte riduzione delle emissioni nocive. Ci sono anche altre critiche di alcuni, in particolare ambientalisti, che si chiedono se questo obiettivo delle fonti rinnovabili sia veramente realistico. Il problema è questo: la Commissione ha deciso di imporre un obiettivo vincolante del 27% da qui al 2030 a livello europeo, ma lasciando tutta la libertà ai governi sul fronte delle rinnovabili. In altre parole, i governi non devono avere dal loro punto di vista obblighi vincolanti, e quindi molti si chiedono: ma com'è possibile raggiungere un obiettivo generale se la somma delle parti rischia di essere diversa? Effettivamente, insomma, è un po' incongruente, nel senso che uno dice la regola è questa, però ognuno poi faccia come vuole, no? È un po' difficile mettere insieme le cose, Beda. Assolutamente, è dovuto anche al fatto che i governi sono estremamente gelosi della loro politica energetica, primo aspetto. E secondo aspetto, i governi hanno politiche energetiche molto diverse. Abbiamo una Germania che abbandona il nucleare e una Francia che invece continua a sfruttarlo moltissimo. Abbiamo una Gran Bretagna che punta molto sul gas di scisto e un'Italia che invece preferisce non farlo. Queste varie politiche energetiche sono francamente difficili da conciliare, ed è probabilmente per questo che la Commissione propone una via mediana piuttosto controversa. È chiaro, vedremo quanto ambiziosi e quanto realistici quindi sono questi progetti in modo lungimirante. Grazie Beda Romano intanto. Ciao Beda. A presto. Ciao. Europa 24 Notte, in collaborazione con Euronet Plus. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi anche la pagina Facebook di Effetto Notte. Vi ricordo, prima di sentire il prossimo ospite, che è il sindaco Massimo Cialente dell'Aquila, vi ricordo quali sono stati i fatti principali di oggi a partire dalla legge elettorale, cioè l'Italicum che è stato firmato anche dal nuovo centrodestra, non ci sarà il Salvalega, stop alle candidature multiple, poi liste con 50% donne e 50% uomini, e nel referendum dei 5 Stelle ha vinto il proporzionale. Sulla vicenda Electrolux, lite tra la governatrice del Friuli Venezia Giulia Serracchiani e il ministro dell'Industria Zanonato. Fatto di cronaca gravissimo a Sesto San Giovanni, una madre di tre gemellini è stata uccisa da un furgone, l'autista nella retromarcia, che ha fatto retromarcia, era senza patente. Cinema, è morto il regista Carlo Mazzacurati, ha raccontato il Nord-Est, Leone d'Argento con il Toro nel 94, poi Vesna va veloce, aveva 57 anni, e per il calcio il Milan in campo per la Coppa Italia contro l'Udinese. Buonasera sindaco Massimo Cialente. Buonasera a voi. Sindaco, mi dica un po' la verità, lei non è che ci ha preso un po' gusto con queste dimissioni? No, guardi, io mi sono dimesso solo un'altra volta. Due volte, ben due volte si è dimesso e poi è ritornato. Spero, sì, la prima volta fu un gesto di estrema protesta, perché nel 2011, era, no? Nel 2011, tant'è vero che il 17 marzo, credo fosse il giorno in cui i sindaci delle città più importanti erano invitati al Quirinale per l'Unità d'Italia, io la passai nel diroccato, distrutto Palazzo Margherita con un freddo terribile che occupai, sia da quando mi fecero scendere centinaia e centinaia di cittadini insieme al prefetto e così via. Ne posso dire che non fu una butade, è una cialentata come la chiamano, perché successivamente nella terribile estate del 2012, prima che entrasse in crisi il governo Berlusconi, Gianni Letta ci chiamava ogni sabato a cercare di trovare un bandolo della matassa, e in due occasioni mi disse, che anche avendo sentito il presidente Berlusconi, mi chiesero scuse per non aver capito allora il segnale che lanciavo. La seconda volta mi sono dimesso nei giorni scorsi, sperando un po' di salvare l'immagine della città, per in fondo un avviso di garanzia al vice sindaco e a un funzionario, perché poi l'arresto riguarda un fortissimo esponente del centrodestra aquilano che si era dimesso dal consiglio comunale e dopo un anno e qualche mese al terremoto per fare il broker qui nel campo della ricostruzione privata. Su questo si è scatenato un attacco a me personale fortissimo, però cominciava a esserci un attacco alla città. E poiché la città non può passare per la città del Magna Magna, dell'Ari, perché ha bisogno della solidarietà del paese, io pensavo di fare come in certi film americani, no? Inseguito dagli indiani ho detto va bene, me ne vado io, inseguiranno me fino in fondo, si salva la città. Invece dopo le dimissioni gli attacchi sono diventati fortissimi nei confronti della città, culminati qualche giorno fa con uno dei più importanti giornali italiani che lei conosce molto bene, che addirittura ha parlato di una città che chiede 60 miliardi per essere costruita, ma tutta disonesta e così via, quasi a dire a tutti gli italiani ma vale la pena dare questi soldi per ricostruire una città che è fatta di banditi. Io ho riflettuto a lungo e la città mi ha chiesto, mi creda, di tornare. Il giornale mi definisce un sindaco squattrinato, io non mi vergogno di non essere ricco dopo 20 anni che ho fatto politica, è chiaro, se continuavo a fare il medico sarei stato un po' più ricco. Mi ritengo molto ricco di affetti, però insomma è stata una scelta non facile, e oggi però ci ho tenuto a dare dei dati che daremo adesso a Roma. Dobbiamo decidere se la conferenza stampa la facciamo a Roma, e così vediamo un posto che ci ospita, oppure pensavo di farla alla stampa estera, perché almeno chiedo asilo politico l'informazione estera, per dire come sta la ricostruzione italiana. Vede, io questa mattina ho dato dei dati precisi ed vi ringrazio per la possibilità di dirlo agli italiani. In questo momento, secondo lei, dei 5 terremoti passati al sesto nostro, senza contare Emilia che ancora non è rientrata nella statistica, quindi partendo dal Belice in poi, sì, il terremoto che sta costando meno a parità chiaramente di danno con tutti i rapporti. E quello dell'Aquila? Bravissima. Io le posso fare un esempio. Vedendo, ma è costato meno nel senso che hanno finanziato meno, che lo Stato ha passato meno finanziamenti o cosa? Se si fa il rapporto con il numero di sfollati, la quantità di danni, per noi è stato stanziato meno, anche perché noi non abbiamo una legge, non abbiamo stanziamento, ecco perché io anno in anno devo levare bandiere, adesso devo fare sciopero della fame, adesso dovrò darmi fuoco e così via. Ma il problema è un altro, che noi abbiamo creato un meccanismo del quale siamo orgogliosi, che abbiamo pagato pesantemente, soprattutto il sindaco ha pagato, perché poi tutto quello che succede, giustamente il sindaco, la sua maggioranza. Però Cialente, mi faccia dire dei numeri, sì, mi perdoni, sì, perché parliamo di numeri. So. La ricostruzione in questo momento, fino a dove è arrivata il dato del mese di ottobre 2013, a fronte di una richiesta di ricostruzione privata delle case per 3 miliardi e 100 milioni, il meccanismo che noi abbiamo messo su, che ci ha fatto rallentare un poco, no? Anche se stiamo andando velocissimi rispetto ad altri terremoti, questo è un altro dato, sa quanto abbiamo risparmiato? Revisionando i progetti, anche facendoli più sicuri, migliori, abbiamo risparmiato 413 milioni di euro. Ma a che punto sta la ricostruzione, sindaco Cialente, dell'Aquila? La ricostruzione è partita in questo momento alla grande, con una capacità di impegno di progetti, diciamo, di rilasciare finanziamenti definitivi per il progetto per 110 milioni al mese. Questi non sono soldi incontanti, perché noi abbiamo studiato un piccolo meccanismo che il governo ha condiviso, e parlandone anche con l'Associazione Bancaria Italiana, perché noi ci stiamo gestendo tutte da soli, no? Senza regione, provincia, con un governo spesso un po' assente, anche perché distratto da altre vicende. Noi abbiamo trovato questo meccanismo. Lei sa che per far partire tu devi avere la competenza completa, no? La competenza, cioè io devo avere, per far partire il suo aggregato di 10 milioni di euro, io devo sapere di avere questa somma per legge. Però nello stesso tempo il suo cantiere quanto durerà? Tra i 24 e i 36 mesi. Sindaco, però mi perdoni, al di là di queste cose è importante che lei abbia scelto come vice sindaco l'ex procuratore di Pescara Trio Foggi, perché dice voglio che ci sia trasparenza nell'amministrazione, che verifichi come vanno le cose. Sì, però guardi, il mio problema, il nostro problema, è come dire agli italiani, no? Che siamo gente per bene, non c'è il magna magna, non siamo tutti ladri, ci stiamo comportando bene, perché io devo dire all'Italia, sa chi, no? Innanzitutto i 17.500 volontari che sono venuti qui e che hanno dato l'anima per noi, primo. Secondo, io devo dire al piccolo imprenditore italiano, al piccolo artigiano che non arriva a fine mese, che non riesce a stare aperto, alle famiglie, oggi lo dice la UE, no? Queste famiglie, anche i lavoratori non arrivano a fine mese, non possono pensare che quel pezzetto di pane che ciascuno italiano si deve levare alla bocca per noi vada nel malaffare. Capisce? Allora, io lei si riferisce all'inchiesta, no, che c'è stata sugli appalti, sulle tangenti lì per la ricostruzione. Guardi, io ho visto ultimamente su un altro importante giornale italiano parlare di tante cose, parecchie non riguardano neanche il mio comune, sono legate alla fase dell'emergenza. Qui parliamo di vicende del 2009-2010, quando c'era la protezione civile, dove c'era il commissario. Ma non è questo il problema, che non possiamo far vedere che ci sia il malaffare qui, anzi, penso che noi siamo stati gente molto attenta, molto per bene, con quindi, grande rispetto dei soldi. Ecco, quindi, perché ho chiesto a Trifoggi di venire? Perché Trifoggi non è tanto il problema quello che doveva fare in termini di trasparenza. Noi avevamo già preparato tutto, siamo stati prima a recepire la legge anticorruzione, abbiamo fatto la centrale di committenza, tutto quanto. Trifoggi dovrà adesso ricostruire quello che è successo, il ruolo del comune, e testimoniarlo all'Italia, mentre oggi io sono indifeso rispetto agli attacchi. No? Si dice tutto il contrario di tutti, non io, dico la città, e lei capisce che mettere uno che ha fatto il magistrato inquirente per 45 anni, che ha condotto indagini su contro il centrodestra e contro il centrosinistra. L'uomo oggi si è dichiarato, non lo sapevo neanche, uomo di centrosinistra, l'uomo che ha arrestato la giunta regionale del Turco, no? Quindi voglio dire, è una persona, un servitore super partes. Sindaco, mi dica in 20 secondi che ci rimangono, quali sono le prospettive per l'Aquila? Sono proprio 20 secondi, poi ci tranciano. Rispetto del cronoprogramma, che il 21 marzo 2013, primo giorno di primavera, abbiamo sottoscritto con il governo, Monti, ministro Barca, che prevede un ritmo di finanziamenti per poter ricostruire la città a 12 anni dal sisma. Se non prendiamo questo obiettivo, l'Aquila è finita, forse si ricostruirà fra 20 anni, ma non ci saranno più gli aquilani, soprattutto i giovani. Questa è la grande questione del paese. E io sognerei un paese nel quale, anziché dover fare io levare bandiere, cioè fare finta di essere il bambino capriccioso, ogni tanto ne spara uno, ne spara un'altra, potesse essere il sindaco di una città che l'Italia vuole ricostruire per il suo orgoglio. Grazie sindaco Massimo Cialente, grazie, avremo modo di risentirci, noi ci sentiamo tra poco.